Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È l'inizio del terzo volume di Eclettica, quello che va in onda originariamente il mercoledì fra le 19 e le 20. Un benvenuto a tutti voi da parte di Giulio Caperdoni, che vi ricorda che i due modi per mantenere il contatto al di là delle trasmissioni radiofoniche sono il sito myspace.com/eclettica, su cui trovate anche le indicazioni su come attingere al podcasting, e la lista nera a cui potete iscrivervi grazie all'indirizzo giulio@radiorockfm.com. Tutto successe per colpa della dannata televisione. Beh, questo è un po' esagerato. Diciamo che la mia implicazione in quella diabolica faccenda avvenne a causa, e qui non cambio nemmeno una virgola, della dannata televisione. Anche se forse dovrei essere più onesta e confessarlo. In fondo fui io la principale responsabile. Responsabile di cosa? Di essere apparsa sul maledetto schermo. Perché? Forse per non aver saputo resistere al suo magnetico influsso sulle volontà. Questa fu una delle ragioni, ma non la principale. Questo era l'incipit dei Messaggeri dell'Oscurità di Alicia Jiménez Bartlett. Dear Emily, Sei stato geniale, Lloyd. Veramente geniale. Come ti è venuta in mente una fregatura del genere? L'ha vista in un film una volta. Sei stato incredibile. E com'è finita? Un tipo raggira un deficiente, si fa pagare il conto e poi se la passa liscia come l'olio? No. Nel film lo raggiungono dopo che ha fatto mezzo miglio di strada e gli tagliano la gola. Sapessi che scena! Molto trascinante, mi piace molto il ritmo di questa Collarbone del trio inglese Fujiya e Miyagi, preceduto da un nuovo brano estratto dall'album di Jennifer Ever che tanto abbiamo ascoltato, però concentrandoci su una traccia sola. Invece, non parlando più del passato ma del futuro, cioè del brano che sta per arrivare, vi voglio aggiungere un'informazione rispetto a quella che già vi avevo fornito la prima volta che trasmisi The Ladybug Transistor. Loro sono di New York e sono attesi da un nuovo disco per quanto riguarda questo 2007, ma nel frattempo, per ingannare l'attesa, sono usciti con un EP con poche canzoni per un'etichetta spagnola, la Green UFOs, EP che si chiama Here Comes the Rain, in cui ci sono tante collaborazioni prestigiose, ed è questa l'informazione che so è preziosa per chi ascolta Eclettica da anni. Fra queste collaborazioni preziose c'è Jens Lehmann, che proprio è la voce che sentite in più all'interno dei cori di Here Comes the Rain. Here comes the rain. Quella mattina ero malinconica. I nuvoloni che avevano popolato il cielo nelle ultime ore sembravano sul punto di scoppiare. L'umidità mi appiccicava i capelli a ciocche. A un tratto ebbi una funesta e vivida percezione dell'effetto che avrei potuto fare sugli altri. Disastroso. Una quarantenne che affronta la nuova giornata di lavoro senza neppure un ricordo memorabile del giorno prima. Sospirai. Perché mi preoccupava tanto in quel momento l'immagine che potevo proiettare nella mente altrui? Abitualmente non ci penso. Questo era l'incipit di Morti di carta di Alicia Giménez Bartlett. Thank you. خلت الثورة وكان يوهيش كان ساسقطين يا غضنينينا أمانين ساسقطين يا غضنينينا أمانين sentire un po' di radio per cambiare. La radio? E a che serve la radio? Pronto, Harry? Un merlo? Yeah! Che? Yeah! Vola! Yeah! Yeah! Yeah! Un merlo che vola, non lo sapete voi altri. Voi altri. Mi comprerà, comprerà un merlo che un vola, che vola. E se quel merlo, se quel che, merlo vola, che non vola canta, non canta. Mi comprerà il diamante che incanta. E se il diamante poi non brilla. Please pull.